Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Passarono altre due settimane e più giorni ancora. Olindo era tornato a Rincine. Sarebbe sceso in città il prossimo giovedì, come tutti i muratori e manovali che abitavano nel contado. Ersilia, d'accordo con Metello, gli aveva dato il di più che essa aveva guadagnato lavorando la treccia anche dopo cena. Era una miscea, ma erano altri 25 soldi oltre le 3 lire delle collette. Dal canto suo, siccome anche per loro Salani la situazione era diventata giorno per giorno sempre più seria, si allungava la nota del fornaio, del droghiere, e cresceva da solo, non versando le rate, il debito con la strozzina, Ersilia aveva deciso di lasciare la treccia e rimettersi ai fiori di carta, non più per diletto, adesso, ma per guadagnare. Roini, il suo ex principale, aveva sposato una lavorante. Una moglie gli ci voleva, e il suo sguardo non spaziava al di là del laboratorio. Sfumata Ersilia aveva ricominciato a considerare le ragazze e le donne che sedevano davanti ai ciocchi battendo sugli stampini, ai banchi intente alla confezionatura, e a quelle che venivano a portargli il lavoro fatto a domicilio. Credé di essere lui a scegliere, ma finì per impalmare la più astuta, Adelaide, una di Santo Spirito, il quartiere che attraverso via Santa Monaca confinava con San Frediano. Fosse perché abitava in codesta strada, e più per il suo carattere e i suoi modi, la chiamavano monachina. Dopo un anno di matrimonio, sterile e non precisamente felice, era diventata la padrona in ogni senso e misura. Una resipola a metà della fronte aveva ucciso i Roini nel giro di qualche settimana. Ersilia andò a trovarla. Erano state compagne di lavoro e aveva lasciato libero il campo. E seppur un tempo l'avesse odiata, ora Adelaide non gli avrebbe chiuso l'uscio in viso. Dopotutto, era la rinuncia di Ersilia che la vedova Roini, come si leggeva adesso sugli sporti del laboratorio, doveva la sua fortuna. Così fu. Adelaide l'accolse a braccia aperte e le dette le prime ordinazioni. Le prestò addirittura il ciocco, il mazzuolo e gli stampini. Né si dimostrò superbo o ipocrita, al contrario. «Vedi il destino, Ersilia? Potevi essere tu al mio posto e io venire a chiederti del lavoro. Me lo avresti rifiutato? D'altronde, nella tua povertà sei stata fortunata. Hai un marito giovane, sano, hai un bambino». «Mi contento», Ersilia le rispose. «Sì, in quanto ad affetti mi sento una signora». «E ora che tu mi dai lavoro, anche se lo sciopero durasse un anno, non si morirà di fame. Mi contento», ripeté. E lui, Metello? Forte e padrone di sé, quando si trovava tra i suoi compagni, in piazza Santa Croce o alla Camera del Lavoro, incapace di porsi finanche come ipotesi l'idea di capitolare, non appena rientrava, imboccata via dell'Ulivo, piuttosto che alla finestra di casa, volgeva lo sguardo a quella sovrastante. Era un moto istintivo. La volontà ci aveva poco a che fare. E magari Ida non c'era. Stava aiutando Ersilia a confezionare i fiori, o giocava da bambina a bambino con Libero. Metello se ne invaghiva ogni giorno di più, tanto da darla a vedere, pensava, e riflettendoci gli sembrava impossibile che Ersilia non se ne fosse accorta. Si augurava che fosse lei la prima a parlarne, quasi lo irritava questa sordità sentimentale da parte della moglie. Ma Ersilia, egli si diceva, non poteva sospettare i suoi pensieri, certa com'era del suo affetto, della sua lealtà, e soprattutto persuasa, a ragione, di non aver nulla da temere in quanto beltà e intelligenza nei confronti dell'Idina. Inconsciamente, egli cercava di dimostrarsi che Ida non valesse Ersilia, ma ormai egli si limitava ad una comparazione fisica. E siccome era soltanto fisica l'attrazione che provava per Ida, uomo dopo tutto semplice e lineare anche nelle sue contraddizioni, Metello era già pronto, su questo campo almeno, alla capitolazione. Gliene era mancata finora unicamente l'occasione, che infine si presentò ed ebbe il suo antefatto la sera avanti l'offerta dell'aranciata e del vino. Egli discuteva sulle panchine di piazza Santa Croce coi suoi compagni, allorché vide Ida che teneva per mano Libero. Salutò i compagni e gli andò incontro. Il bambino staccò la corsa e lui lo prese in braccio. Camminando, dopo un silenzio, lei disse: «Sembra non le abbia fatto piacere questa sorpresa, o almeno che le abbia fatto piacere soltanto per il bambino. Del resto, si commentò, è naturale». «Mi son dimenticato di ringraziarla, sono un maleducato». Lei rise ed egli aggiunse: «Ma certe volte, come coi padroni, bisogna sapersi difendere per non lasciarsi tentare». «Io non mi intendo di padroni, non ne ho mai avuti. Le tentazioni poi sono del diavolo». «Eh no», egli disse, «ce l'hanno anche i santi le tentazioni». «Ma sono opera del diavolo», ella ripeté. Erano neri quegli occhi, e tuttavia brillavano come ci fossero dentro 100 pagliuzze d'oro. Il seno sotto la fascetta era premuto, e come ansioso sembrava di venir liberato. E se uno ci resta preso, dove va a finire? Ah, non lo so davvero. All'inferno, ma anche in paradiso, chi lo sa. Ma non mi faccia bestemmiare. Egli la guardò negli occhi e gli sembrò di trovarsi in ginocchio. Da quel momento ne andava di mezzo la sua responsabilità di essere un uomo e di portare i pantaloni. Entrarono in via dell'Ulivo e Idina non gli dette tempo di aggiungere una parola. Lo precedé di qualche passo e agitò la mano verso la finestra dove stava affacciata Ersilia. Era proprio in piazza Santa Croce, come ci ha detto lei. E ora, l'indomani, uscita Ersilia col bambino per andare dalla madre in San Frediano, Metello si era messo camicia e calzoni. In fretta si era passato la spazzola sui capelli e guardato allo specchio. Se egli fosse stato fino in fondo sincero con se stesso, bel muratore, si sarebbe potuto dire. Intanto saliva la breve rampa di scale. Ella era dietro la porta e gliela schiudeva. La stanza, dalle persiane abbassate, era in penombra. Sul tavolo c'era il fiasco di vino e la caraffa dell'aranciata. Come con Viola, 10 anni prima, egli si chiuse l'uscio alle spalle e subito la strinse tra le braccia, finché ella non staccò le labbra dalle sue, e al contrario di Viola non disse «ce n'è voluto», ma sussurrò «non è una pazzia». «No, no», egli disse, mentre la prendeva in braccio, e conoscendo la casa, la portava nella sua camera, immersa nella stessa penombra, e l'adagiava sul letto, e le scioglieva amorosamente la vestaglia. Ella gli apparve nuda sotto la vestaglia, con le calze nere e le giarrettiere sostenute dal cinto, anche nero, che sottilmente le fasciava i fianchi. La sua mano, larga, quadrata, di muratore, si posò su di un seno e lo racchiuse. E quando la prese, con frenesia, ora con ferocia, ella gli tenne testa brevemente, mordendosi le labbra. Poi, dinanzi alla sua veemenza, una gagliardia che le era ignota, fu come se crollasse di schianto. Sollevò le braccia e stretto il volto di Metello tra le mani. «Amore!» gli sussurrava, ebbra, arresa, offrendosi ormai inerte, tutta sussulti al suo ardore. Quindi, egli la teneva ancora tra le braccia, beveva con lei non il vino, ma l'aranciata, fresca, saporosa, centellinando insieme dalla caraffa a cui avevano dato fondo, e la sussurrò. «E ora?» Aveva uno sguardo sperso di bambina, e insieme una luce in quell'oro delle pupille, come di durezza, di cattiveria. Restava nuda. Dimentica del proprio stato e leggiadra in questa sua impudicizia, con le calze arrotolate sotto il ginocchio e senza più le giarrettiere. Così, poco prima, era andata a prendere la caraffa e adesso, bevendo, un sorso, lei, un sorso Metello, lo guardava. «E ora?» ripeté. Egli era nuovamente eccitato e nello stesso tempo la sua nudità e il suo sguardo lo imbarazzavano. Prese un lembo di lenzuolo e la ricoperse fin sotto la gola. Si alzò. E mentre lui le voltava le spalle, ella aggiunse: «Io ti voglio sempre». Egli tornò a girarsi, appoggiò le mani alla spalliera del letto. «Ci si dovrà pensare», disse. «Non complichiamo le cose prima di incominciare». Lei era supina, lo fissava con quello sguardo ingenuo e stregato. D'un tratto, con un gesto inatteso, allontanò da sé il lenzuolo e fu ancora tutta nuda, immobile, corrucciata. Egli si aggiustava le bretelle e sorrise. «Bisogna stare molto attenti». Ma non lo turbava nessun senso della colpa, così dicendo. Uomo, comunque soddisfatto, faticosamente chiedeva a se stesso l'atteggiamento da tenere. «Non ho paura di nulla», ella disse, e dette un calcio al lenzuolo che ancora le ricopriva i piedi. «Nemmeno io ho paura di nulla, ma ho anche altre cose a cui pensare». E subito serio, tanto che essa poté immediatamente rendersi conto della persuasione che lo animava. «Se vuoi che questa sia stata la prima e l'ultima volta, dipende da te, mi spiego?» Ella venne in ginocchio a piè del letto, nuda com'era, e gettò le braccia al collo di Metello, lo baciò sull'orecchio. Egli la staccò da sé, teneramente, ma con fermezza, e le disse: «Non la prendere troppo sul serio, Idina. Per ora ci siamo levato una soddisfazione. Dormiamoci sopra e domani se ne riparla. Nel frattempo sappiti controllare». Ella era rimasta in ginocchio, le mani incrociate sul grembo, gli occhi già pieni di lacrime, e allorché si sentì la voce di Ersilia dalla finestra sottostante: «Ida! Idina! Ella balzò dal letto, infilò la vestaglia, si ravviò i capelli e raggiunse la finestra. Rispondeva a Ersilia e con la mano dietro la schiena faceva cenno a Metello di andarsene. Egli discese le scale in punta di piedi, si fermò sulla porta di strada, poi risalì e solo allora provò vergogna di sé. Ma non ancora rimorso, piuttosto del fastidio per i sotterfugi a cui si vedeva costretto e la commedia che entrando in casa avrebbe dovuto recitare con Ersilia. Invece di spingere l'uscio, discese nuovamente in strada, rasente il muro, e andò alla camera del lavoro. «Arrivi in ritardo», gli disse Del Buono. «Ma del resto, per quel che c'è di nuovo, dove sei stato? Hai trovato qualcosa da fare?» «Ma che?» egli rispose. «Vengo dal pallone». «Se non t'ho visto!» esclamò Giannotto. «Da che parte eri?» «Tu da che parte eri, se c'eri?» E si sentì in colpa. Ma un attimo, che si fa presto una volta acquisita la capacità di dissimulare i propri sentimenti a sentirsi lieti e sicuri di sé, specie se si ha ancora addosso il profumo di un'avventura a lungo inseguita e rivelatasi anche superiore all'attesa. Erano usciti dalla camera del lavoro e avevano fatto sosta alla mescita Chiti. Giannotto, a cui rimanevano giusto quei 3 soldi delle 10 lire che aveva preso impegnando l'orologio, volle essere lui a offrire. «Così resto pulito e non se ne parla più. Fortuna che ho una moglie che fa la sigaraia. Basta saper resistere, c'è sempre un santo che ci aiuta». «Sono le vostre donne che vi aiutano», disse Del Buono. «E perché avete delle famiglie leggere? Ma per la grande maggioranza non è così. Voi altri, in un certo senso, siete dei privilegiati». Non erano argomenti che gli risuonassero nuovi dopo tutto. Ma Del Buono, col suo fare cocciuto, che è proprio delle persone serie quando danno a vedere di esserlo, continuò: «Questa gente sta facendo degli eroismi. Noi badiamo a dire che resistere è nell'interesse di tutti, che la classe operaia dovrà portare ad esempio questo sciopero dei muratori di Firenze, qualsiasi sia il modo in cui andrà a finire. Ma fino a che punto, ecco, uno zoppo può continuare a camminare. La responsabilità è, sì, dei padroni, ma anche nostra, in modo particolare. Mia, tua, sua di Gemignani. Siamo noi che teniamo sugli animi, ma non ci dobbiamo dimenticare che anche se gli animi ci stanno, gli stomachi sono digiuni e ci sono tante bocche di ragazzi lì aperte a pigolare. È vero o no?» La forza di una persona seria consiste nella sua capacità di scoprire l'America come se fino allora nessuno ci avesse mai messo piede. E nel caso particolare, nel poter dire ciò che Bastiano diceva, a freddo e in piena convinzione. Perciò, più ci è cara codesta persona, più ci appare buffa e ci lascia inteneriti. «Questo, a suo modo», pensò Metello, e ancora tra il siero e il faceto, gli rispose: «E dovrei fare qualcosa io, dico io Salani?» Del Buono si confuse, si lisciò la barba. «No, ma siccome da un po' di tempo ti vedo frastornato, lo capirei tu avessi trovato da arrangiarti con un altro lavoro». E Giannotto, così per dire, disse: «E significa che non avendo come occupare la giornata si sarà fatto la ganza, Metello?» «Questo potrebbe essere anche vero», risero, e a Del Buono medesimo luccicò lo sguardo dietro le lenti. Giannotto disse: «Don Giovanni, lo sai, Bastiano, è sempre stato. Una volta, o non dette noi anche a mia moglie, quando non conoscevo né te né lei». Del Buono li salutò. C'avevo una riunione di stipettai o di parrucchieri, al solito. Rimasto solo con Giannotto, Metello gli disse: «Ora, tu non lo raccontare ad Annita, altrimenti domani Ersilia riceve una raccomandata». «Allora ci ho azzeccato. Ho detto potrebbe, non ho detto è vero». Ma poiché, per quanto un uomo sia, a sua volta attento e serio, un'avventura non è mai compiutamente tale e goduta se non la si confida a un amico, Metello trovò nelle tasche 2 soldi di cui si era dimenticato e davanti al banco, non più del Chiti, ma di Nocellino, rivelò a Giannotto il suo recente segreto. promettendogli di seppellirlo in sé, l'amico convenne che una relazione con una donna come Ida la si può sempre troncare al momento opportuno. Non è cosa che impegna il cuore. D'altra parte, è come una mescita che ti sta davanti agli occhi. Tu che fai? La lasci nel bicchiere? L'indomani era mercoledì e cadeva la festa di San Giovanni, dal quale i muratori non si aspettavano un miracolo. E poi il giovedì della sesta settimana, che essi si erano dati come termine, dopodiché, in un modo o nell'altro, avrebbero agito. C'erano sempre le sentinelle sui cantieri e il picchetto dentro il portone, dove aveva sede l'associazione dei costruttori, nessuno dei quali si era fatto vivo né in sede né sui cantieri. Si diceva che Maddii e Taiuti fossero a Roma a muovere chissà che e Badolati fosse riapparso tra le impalcature di via 20 settembre, ma nessuno l'aveva incontrato né ci aveva potuto parlare. Gli scioperanti, quelli che venivano dalla campagna e quelli di città, sostavano dall'alba a capannelli nei paraggi della Camera del Lavoro. Via via che le ore passavano, diventava sempre più improbabile che i denari della sottoscrizione giungessero in tempo per essere distribuiti. Ma siccome la speranza è sempre l'ultima a morire, si era fissato l'adunanza per le 7 di sera. Nell'attesa, nessuno si sarebbe mosso d'attorno Corso dei Tintori. Metello, lui, aveva un altro modo di impiegare la giornata. Gli piacesse, o se ne fosse già pentito, lo aspettava Lidina. Non azzardandosi una seconda volta nelle sue stanze, si erano dati appuntamento fuori di Fredi. Ma coi 4 soldi in tasca che egli aveva, si potevano guardare negli occhi e bere una gazzosa. Il calore non gli risparmiava. Egli la condusse a Monte Rivecchi. Era una strada che conosceva ormai a memoria. Del resto, ci fu sempre un fiume o un torrente a delimitare l'orizzonte delle sue avventure. Come da ragazzo il greto della Sieve su cui aveva lottato con la piccola Cosetta, e poi la riva d'Arno di rimpetta alla casa di Viola, e gli argini e i canneti del Mugnone che l'avevano visto in compagnia di Ilse, la prussiana. Adesso il suo adulterio si consumava tra le rupi, i faggi e gli ulivi degradanti sul Terzogno. Una sporgenza del terreno gli permetteva di dominare il paesaggio e di non essere veduto. Passarono le ore senza che lui se ne accorgesse. Calava la sera. Un pastore radunava il suo gregge sotto il poligono e lo istradava sul sentiero che porta a Careggi. Poco più in là c'era un appuntato dei carabinieri con una ragazza. Lui si era tolto la lucerna e sbottonato la giacca. Metello disse, dove lo volevi trovare un posto più sicuro? Ida sembrava una giovinetta alla sua prima uscita. E una donna che pur nell'impaccio delle vesti aveva saputo essere brava e abile e generosa mentre Metello si chinava su di lei e gradatamente il cielo imbruniva. Si svegliavano le rane e si quietavano le cicale. Egli aveva messo la propria giacca sotto la sua testa. Ora tu vai al mare come avevi in programma e tra un mese, quando torni, si decide come si si deve comportare. No, no e no, ella disse, ma dolcemente, non piccata. Tornerei indietro col primo treno, son sicura. Metello prese con 2 dita una formicola che gli camminava sul braccio e continuò invece di risponderle. Può darsi che tra un mese questa infatuazione sia passata tanto a me che a te. A me no, di certo, ella sospirò. Mi sembra d'essere al mondo da 3 giorni appena. Io invece, egli disse, e gettò dei fuscelli attaccatisi alla gonna dell'amante, ho meno anni di Cristo e comincio di già a sentirmi come un ladrone. Si alzò in piedi. Andiamo, non vedi sta tramontando il sole? Vuoi che rientri tuo marito e non ti trovi in casa? Oh, ella esclamò, e così seduta si riavviava la crocchia e si appuntava il cappello con lo spillone. Per lui basta una scusa, tutto quello che gli dico è buono. Piuttosto, e non nego tu abbia ragione, sei tu che ti preoccupi. Egli la interruppe. Gli riusciva odioso sentirle pronunciare il nome di Ersilia. «Debbo trovarmi prima delle 7 alla camera del lavoro», disse. Anche questo doversi giustificare ora lo infastidiva. Ida gli tese la mano perché l'aiutasse ad alzarsi, e dandosi lo slancio, gli si riversò apposta sul petto e l'abbracciò alla vita. «Ti sei già pentito?» gli chiese. Aveva delle perline sotto le ciglia, ma forse era sudore. Lo baciò sul mento, e lui non seppe, non volle sottrarsi a questa effusione. E là non era né sciocca né Vanesia a conoscerla più da vicino. Oppure erano bastati pochi giorni e le sue intimità, i suoi trasporti l'avevano cambiata? Era abituata come una signora, e lui l'aveva portata in quel luogo all'aperto, tra le formiche e gli sterpi, come una contadina. Per un attimo la desiderò di nuovo, ma libera, fresca, odorosa, interamente nuda, come nelle sue stanze 2 giorni prima. No, davvero essa non era l'esosa che egli aveva creduto. Ora lo guardava negli occhi e sembrò intuire il suo pensiero. Abbassò la testa e il suo volto scomparve sotto la gran paglia che l'adornava. «Non è più bella al coperto?» sussurrò. «Come l'altro giorno, anche se non in casa mia?» «Devi partire», lui disse e ripeté. «Domani devi partire per il mare». La precedé e lei gli fu vicina e lo prese a braccetto. Oltrepassarono il carabiniere e la ragazza. Il cielo era tutto rosso all'orizzonte. Scintillava gialla la palla del sole, a filo dei tetti di Rifredi. «Ormai ho rimandato d'una settimana. Almeno per un'altra settimana mi devi sopportare», ella disse. Era infantilmente imbronciata, sbatteva le ciglia e colpiva i sassi, camminando, con l'ombrellino. Si lasciarono all'altezza del romito. Egli la guardò allontanarsi dall'angolo di rimpetto alla vetreria. Era una figurina esile, elegante, che risaliva il ponte e sembrava come riempirsi di colori e sfumare nel riflesso del sole. Tutto attorno, i caseggiati ai quali egli aveva lavorato e dalle cui impalcature era precipitato il padre di Ersilia, erano popolati in quell'ora. Giocavano i ragazzi sulla piazza e nei cortili. C'erano i tavolini fuori la canova. Per un lungo momento, non dei precisi ricordi, ma un'improvvisa amarezza gli appesantì il cuore. Poi staccò la corsa, come un ragazzo, giù per la discesa della fortezza. Una fuga, si sarebbe detto, fino al corso dei tintori e alla camera del lavoro. Lì giunto, trovò delle novità che lo impegnarono tanto da permettergli di lasciarsi in ogni senso dietro le spalle la sua avventura, durata 3 giorni con la bella Edina. Ma oltre allo sciopero, che nel corso del pomeriggio aveva preso tutta un'altra piega, era accaduto qualcosa che soltanto in seguito egli sarebbe venuto a conoscere con precisione. Questo qualcosa riguardava Ersilia. Ida! 3 giorni prima, chiamando l'amica e di ritorno da San Frediano dove aveva accompagnato Libero, Ersilia era una donna contenta di stare al mondo e della propria giornata. Ora che sua madre le custodiva il bambino, lei avrebbe confezionato fiori, notte e giorno, se fosse stato necessario. A 23 anni, con la sua intraprendenza e la sua salute, la felicità domestica che la compiva, le difficoltà attuali non le apparivano peggiori di quelle superate nel passato. Scendendo punta alla Carraia, si era ripetuta che forse, lasciato solo con la nonna per le strade di San Frediano, Libero avrebbe imparato prima del tempo a parlare sguaiato. Poco male, non pensava di educarlo come un signorino. E poi, lei gli avrebbe fatto la ramanzina. Aveva 2 anni, nemmeno, ma sapeva di già ascoltare. Per il resto, Libero sembrava la volesse assomigliare nel non riuscire a piantare vere radici in Santa Croce, anche se lui in questo quartiere c'era nato. Quando Ersilia lo conduceva in piazza, sì, giocava con quei bambini, ma non si divertiva e non rideva come si divertiva e rideva con quelli di San Frediano, col nipote di Fioravanti, il tornitore, col figlio dei Gemignani, Spartachino, e quei 2 gemelli di Miranda, che avevano l'argento vivo addosso come la loro povera mamma. Forse perché in San Frediano gli facevano gran festa appena lo vedevano, sia i maschi che le bambine, specialmente Iole, che era la più grande, andava a scuola ed era sempre tutta riccioli e più bionda dell'oro. Per lei Liberino sembrava averci addirittura una passione. La chiamava Loli. e chiamava Nina Marina, la sorellina di Spartaco, che aveva appena 13 mesi, camminava ed era più alta di lui. Però lui era più grasso. Non che Marina mancasse di salute, soltanto che Libero era più grasso. Lo riconosceva anche Annita. Mi va tutta per lungo questa creatura. Presente l'amica che l'aveva raggiunta e sotto dettatura della madre, Ersilia aveva scritto al fratello laggiù nel tacco dove si trovava, in terre ballerine. Digli che domani gli spedisco un vaglia di uno scudo. Di suo Ersilia ci aveva aggiunto i saluti e messo dentro la busta una cartina da 2 lire. Quando se ne andò, Libero la guardò appena tutto preso dai suoi giochi. Annita disse, è la nuova generazione. Speriamo siano più felici di noi, lei rispose, ma ridendo, così tanto per dire. Poi Annita l'aveva accompagnata fino al ponte alla Carraia. Insieme avevano parlato dello sciopero e di Giannotto e Metello, che per il fatto di essersene trovati a capo, si esponevano più degli altri. D'altronde, se non avessero agito così, non sarebbero stati loro. Strada facendo, si erano fermate dall'usuraia di Camaldoli, che le aveva nelle mani. Anche se non potevano versarle la rata, conveniva sempre farsi vedere. Se tu sapessi dove stati ieri, un posto che è cattivo a indovinare. Ero in cima un poggio e te non c'eri. C'era un mulino, macinava un carro. Ti ritombo e pan frumento, sono la strega e va a dormento. Ti ritombo i belli e brutti, vi farò dormire tutti. La signora Lorena non era una strozzina. In fondo, si poteva dire facesse del bene. Specie se la si trovava di buon umore. Era vecchia decrepita, ma col cervello desto più dei loro. Il suo umore andava a giorni, come il tempo, e a seconda si facevano sentire la gotta e l'artrite. Viveva sola con 3 gatti, 2 tortore e 1 colombo, mezza inferma dentro una poltrona. Il via vai della gente era la sua unica distrazione, e con la miseria che stava di casa in San Frediano, poteva essere certa di distrarsi tutto il tempo che le restava da vivere. C'era una maga, si lavava i piedi. Sul dorso ce l'aveva un gran catarro. E c'era un travicello un po' infreddato, perché il barbiere suo l'aveva rasato. Di ritomboli e panforte, son la strega e vi do la morte. Di ritomboli son pentita, son la strega e vi do la vita. Contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare, non era bacchettona. Anzi, fumava il sigaro e le scappavano di bocca certe parole. Da giovane aveva corso la sua cavallina, tanti anni fa, quando c'era ancora Canapone. Non si era risparmiata, ma aveva saputo risparmiare. Ora si diceva che la malavita di San Frediano la proteggesse, ma anche che avesse fatto testamento a favore delle suore che rieducano le giovani traviate. Annita disse, speriamo di capitare in uno dei suoi giorni pari. Furono fortunate. La signora Lorena gli volle persino offrire un goccio di rosolio e gli raccontò delle storie che, malgrado Ersilia e Annita non fossero né ipocrite né signorine, lo stesso le fecero arrossire. Tuttavia, a loro volta, non sarebbero state loro se non avessero colto la palla al balzo, dal momento che la signora Lorena era così ben disposta e allegra. Uscirono con in mano ciascuna 10 lire e quasi gli sembrava di averle trovate per terra o che la vecchia gliel'avesse regalate. Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.